Andrea e Morena in Per fare un branco ci vuole un lupo. Storie di specie non classificate. Buongiorno e benvenuti alla prima puntata di questo nuovo podcast, quindi di questa nuova trasmissione, in cui faremo un sacco di chiacchiere. Assolutamente sì, ben approdati a tutti. Bene, quindi mi sembra doveroso, siccome è l'inizio, ovviamente innanzitutto presentarci, quindi sapere con chi state parlando, o meglio, chi state ascoltando in qualche modo, perché mi sembra corretto. Io mi presento, sono Andrea, sono ex appartenente alle Forze Speciali della Polizia di Stato, ho lavorato come addestratore presso le Forze di Polizia degli Stati Uniti d'America, le Nazioni Unite, e anche sul training civile ovviamente, e ad oggi siamo, quindi in questo caso mi presento, sono ancora io, quindi sono presidente della Endmore, in cui lavoriamo con questo sistema innovativo che spiegheremo ampiamente in questi podcast, che si chiama proprio sistema DPEC. Ora cedo la parola a te. Bene, temevo che questo momento non sarebbe mai arrivato, visto la cosa. Non c'è il dono della sintesi, non ce l'hai. Va bene. Sono Morena, falconiere, ma un falconiere un po' particolare, nel senso che vedo attraverso gli occhi dei rapaci. Vi spiegherò poi più avanti come. Scusa? Ah, vedi, invece tu sei più stringata. Io c'ho il dono della sintesi. Tu c'hai il dono della sintesi. Va bene, presentiamo anche brevemente i nostri trainer, anche se ovviamente loro non parleranno perché non sono dotati del dono della parola, quindi questo ce l'ho solo io, i nostri tre. Vabbè, una battutaccia pessima, va bene? Comunque... Già iniziate a capire con chi avete a che fare. Sì. Esatto. E i nostri trainer sono esattamente 4 cani e più... poi vi spiegheremo perché più, e 4 rapaci, quindi intanto io presento i cani. Abbiamo un pastore belga malinois che si chiama Doom, che è diciamo il beta della situazione, poi anche qua spiegheremo che cos'è il beta. Abbiamo Naftalina, che è diciamo l'individuo più anziano, infatti lo sentite anche sottofondo, lei è un delta specializzato, un ex cane di ricerca in protezione civile. Dopodiché abbiamo Cheyenne, che è un gamma perfetto, un cane un po' particolare, la psicopazza. E poi abbiamo Soyala invece è un omega ed è un pastore tedesco, è un cane molto dolce, e più perché Soyala in questo momento è in dolce attesa, quindi sta aspettando dei cucciolotti, numero N per quello che dicevo, e più perché non sappiamo ancora quanti, che nasceranno credo a brevissimo. Quindi adesso intanto poi lascio a te la parola per presentare i rapaci e poi assieme possiamo presentare anche gli altri componenti. Beh, del team alato fa parte sicuramente Satore, che è il nostro gufo reale indiano. Satore è la mia antenna primaria, poi vi spiegherò più avanti come e perché. Poi sicuramente c'è Almazak, falco poiana di Harris, dal carattere molto particolare, in famiglia lo chiamiamo Pollo, in quanto ama mettersi a pancia all'aria e farsi grattare la pancia, dico sempre che i falchi non apprezzerebbero questo suo atteggiamento. Un falco d'alto volo, lei molto più seriosa, è Anouk, un ibrido tra girfalco e ranario. E ultimo, ma non ultimo, il coccolonosissimo, l'ho coniato adesso io questo termine, Morfeo, un barbagianni. Ok, e il resto del team ovviamente non è propriamente operativo, perché effettivamente non ce lo portiamo negli interventi e nelle attività, ma anche loro chiaramente fanno parte come membri attivi del branco stesso, e sono un gatto cigolo, che è assolutamente parte fondamentale del nostro team, in quanto senza avere lui sulle gambe, in testa, sulla schiena, un po' ovunque, praticamente non si crea nulla. Sì. Esatto, quindi lui è il vero dirigente di tutto. E poi abbiamo 2 tartarughe di terra, Gwendalina e Ubaldo, che anche loro forse potrebbero fare gli ovetti, adesso vediamo, insomma non è detto. Per loro c'è da aspettare. Per loro c'è da aspettare, un pochettino più lunga la cosa. Hanno dei ritmi un pochettino più lunghi, diciamo. Questo è il nostro team. Per ora, poi ovviamente sempre in ampliamento, vedremo cosa ci sarà tra un po'. Io stavo già puntando a un corvo imperiale, speriamo che io possa un caracara. Va benissimo, prendete pure il caracara, io mi prendo il mio corvo imperiale, che tra l'altro è scontrosissimo e cattivissimo con tutti, e questa cosa mi piace da morire, ma detto questo, va bene. Torniamo un pochettino più seri, perché ovviamente, insomma, è bene scherzare, però è bene anche raccontare le motivazioni del quale appunto quello che facciamo. Di quello che facciamo. Noi siamo appunto presidente e quindi fondatore e cofondatore di Elmore. Elmore è un'attività che si occupa di etologia applicata al comportamento umano. Una cosa che immagino non si senta parlare spesso, meglio, di etologia sì, di comportamento umano sì, ma correlarli assieme è una cosa che effettivamente non è proprio consueta di tutti i giorni. Effettivamente noi siamo partiti da un presupposto, essendo tra l'altro anche nell'ambiente della formazione, in quanto mio fratello è appunto presidente di un'azienda di formazione ad altissimi livelli, quindi diciamo l'ambiente formativo lo abbiamo frequentato un bel po', diciamo, giusto? Sì. Ok, intanto si era distratta da buon Omega, ovviamente ogni tanto si distrae, ma va bene così. Comuni. Frasi false tendenze. No, vabbè. E detto questo, quindi in qualche modo ci siamo sempre occupati di verificare quello che era il comportamento umano, il comportamento animale, e intanto anche nell'educazione, come anche nei corsi di falconeria, abbiamo effettivamente verificato che spesso viene detto addestriamo il rapace oppure addestriamo il cane, quando in realtà la maggior parte del lavoro non è mai, o meglio quasi mai, sull'animale stesso, ma è tendenzialmente... Beh, sono le persone da addestrare. Gli animali, esatto. È difficile che il loro comportamento naturale sia errato. Partendo da questo abbiamo pensato anche alla pet therapy, di cui io non mi sono mai occupato, ma si è occupata Morena, se vuoi dire due parole su questo tipo di attività. Sì, attraverso gli occhi dei rapaci vedi proprio come possano esistere solo differenti abilità, non esista la disabilità. Ognuno di noi è abile a modo suo e vede la vita con i suoi colori. Semplicemente le disabilità sono nell'entrare nel nostro schema, nello schema della nostra società. In questo possono esserci le disabilità, ma chi di noi non ne ha in realtà? Non lo so, questa è una bella domanda effettivamente, e partendo proprio da questi presupposti ci siamo domandati effettivamente le differenze tra quelle che ovviamente poi molto spesso anche i cinofili, in realtà questo ne parlano tantissimo, in quanto il cane deriva dal lupo eccetera eccetera, ma la maggior parte dei cinofili non sa una mazza, se vogliamo dirla in molto... Nulla per quello che riguarda veramente l'ordinamento del branco di lupi, e quindi ci siamo, diciamo, appassionati, abbiamo iniziato ad approfondire tantissimo lo studio proprio su un concetto di società di branco di lupi. E effettivamente abbiamo riscontrato che ci sono notevolissime differenze tra quella che è la nostra società, il modo di comportarsi nostro, e quello dei lupi stessi. Inoltre, se pensiamo, noi abbiamo tra tutti gli animali scelto proprio i lupi stessi per appunto farli diventare cani in qualche modo, e quindi per diverse tipologie di attività, ovviamente. Quindi perché non avere oltretutto dei compagni a fianchi dai quali poter imparare veramente qualcosa? E da qui appunto abbiamo strutturato un sistema particolare, ripeto, attraverso numerosissime diciamo sperimentazioni scientifiche che sono iniziate nel 2008-2009, riscontrare quanto effettivamente un cane possa aiutare, quindi far abbassare gli schemi comportamentali, quindi quello che è il comportamento umano, come noi siamo stati programmati, e far emergere il proprio io più vero, se vogliamo, no? Sì, i cani ci aiutano anche in questo. Esatto, quindi facendo questo tipo di attività abbiamo iniziato a sperimentare, a strutturare su determinati tipi di persone, quindi famiglie piuttosto che gruppi sportivi, aziende, a identificare quelli che sono i ruoli all'interno del branco di lupi, quindi come vi citavo prima, no? Alfa, beta, gamma, delta, omega, eccetera, quindi quelli che sono i ruoli, e ristrutturare il sistema sociale attraverso appunto il sistema del branco di lupi, in sostanza. Ma iniziamo a sfatare un po' di luoghi comuni. Quindi se ti dicessi in bocca al lupo tu mi risponderesti? Grazie. Ecco, brava. Molto bene. Vabbè, noi siamo già preparati, no? Ero pronta, ero pronta, ero prontissima. Sì, si dice grazie ovviamente perché il lupo, ovviamente quando si dice in bocca al lupo ti sto augurando che qualcuno ti possa proteggere, quindi digli crepa, non è che sicuramente di molto... molto ben augurante, diciamo. Oppure potrei dirti, adesso ti faccio una bella gufata. Sai quanto apprezzo questo modo di dire. Sì, esatto. Una bella gufata, quindi... Cosa significa una bella gufata? Nel linguaggio comune la gufata vuol dire portare sfortuna. In realtà una bella gufata, i gufi sono ritenuti fin dall'antichità animali messaggeri, quindi perché portare sfortuna? Esatto, quindi tendenzialmente potremmo farvi ancora un sacco di citazioni, tipo il lupo cattivo, il lupo solitario, oppure, se vuoi citare qualcosa sui rapaci? Vabbè, la civetta chiama che la porta morte. La morte. Sì, chiama la morte. Vabbè, un sacco di stronzate, insomma, adesso neanche dirò, scusa, sì, no, un sacco di fesserie, diciamo. I francesismi sono su forte, esatto. Potrete notare. Esattamente. Partendo da questo presupposto, ovviamente noi entriamo, quindi lavoriamo con famiglie, aziende, gruppi sportivi e quant'altro, quindi tutto ciò che riguarda un minimo di due individui a salire, proprio andando a determinare quelli che sono i ruoli di ogni singola persona, secondo il branco di lupi, attraverso uno screening iniziale fatto da due tipologie di attività. La prima è un test molto umano su questo, perché sono a crocette, che si chiama Wolfpack Test. Bravissima, sei preparatissima. Hai visto? Tu cerchi di cogliermi impreparata. Sì, perché ogni tanto ti distrai, quindi poi cerco di cogliermi impreparata. E la seconda attività invece è uno screening vero e proprio con i nostri animali, in cui le persone interagiscono con rapaci e con cani. Una volta determinati i ruoli, e vi posso assicurare che il 99% delle volte periodico le persone non sono assolutamente consapevoli dei loro ruoli animali, andiamo a ristrutturare il branco proprio come se fosse un branco di lupi e far consapevolizzare soprattutto le persone sul proprio ruolo, cosa che spesso è l'aspetto più difficile, se vogliamo, no? Beh, questo è dato anche comunque da un approccio culturale errato, nel senso tendenzialmente si ritiene che l'uomo, il maschio, debba essere il guerriero, quello che è più forte, il dominante, non si prevede. Ah sì, questa era un'altra fesseria di quelle, no? Il maschio dominante. Te la sei persa. Chi è il distratto? Il capobranco. Il capobranco. No, tendenzialmente per gli uomini è difficile magari immaginare di avere un altro ruolo all'interno della famiglia che non sia il ruolo della protezione, il guerriero di turno. Esatto. Sì, effettivamente, ma anche su, diciamo, la parte femminile spesso si ha, soprattutto a volte con il discorso dell'emancipazione femminile, che è sacrosanto e giustissimo, ugualmente si pensa che la corretta emancipazione debba passare attraverso il fatto di essere guerriere anche loro, tra virgolette, no? In realtà è un concetto un po' diverso. La cosa orribile, ma questa è la mia opinione, è il collegare il concetto dell'emancipazione con il prendere, lo scimmiottare tutti i lati peggiori degli uomini, però questo è una sì, effettivamente sì. A volte bisognerebbe ispirarsi agli aspetti migliori in generale, ma questo, ma non solo per le donne, donne e uomini, ognuno ha i propri. Quando anche guardiamo altre culture sarebbe anche lì bene ispirarsi a qualcosa di positivo magari, ma spesso questa cosa non avviene. Ma quindi diciamo che la nostra attività riguarda proprio questo, e parlando un pochino più in dati più oggettivi, questa attività la stiamo svolgendo da diverso tempo con enormi risultati, tant'è che siamo entrati a lavorare in diverse aziende che hanno chiesto il nostro intervento, le nostre famiglie, e tendenzialmente non solo l'armonia di gruppo è migliorata, e questo chiaramente non è un dato particolarmente oggettivo. Il dato oggettivo è che la maggior parte delle attività con cui abbiamo lavorato hanno incrementato non solo il fatturato, ma hanno iniziato a performare maggiormente, quindi nelle prime settimane di attività successiva all'attività che svolgiamo noi. Beh, è direttamente proporzionale con l'aumento del benessere. Se io vado a lavorare in un posto dove sto bene, dove mi sento apprezzata, dove mi sento valorizzata per quelli che sono i miei talenti, sicuramente performerò al meglio. Esatto, quindi in qualche modo noi stiamo lavorando anche noi sulla formazione, ma una formazione che parte non sugli schemi comportamentali umani, questi non ce ne occupiamo assolutamente noi, non siamo formatori né psicologi, ci occupiamo proprio degli istinti più animali, quindi mettiamo le persone e i gruppi in situazioni in cui la parte più animale viene fuori in maniera molto importante, e viene fuori attraverso un'attività che che inizieremo a svolgere a breve, che si chiama proprio The Pack System, cioè un 3 giorni in cui le persone verranno private di qualunque cosa possa legare la tecnologia al contatto col mondo ordinario, cioè quello in cui noi siamo abituati, e verranno immersi in una natura selvaggia, e verranno fatti vivere come un branco di lupi in qualche modo, proprio per far emergere determinati tipi di valori, determinati tipi di possibilità, e tutto questo tipo di attività verrà suddiviso tra due clan, noi abbiamo chiamati in questo modo perché il branco è il nostro, quindi il Nor, e all'interno del branco ci sono quindi due clan, quindi i Raptors e i Dogs. Quindi sono i due clan, ovviamente, con due bandiere differenti. Noi abbiamo una bandiera verde per i Dogs e una bandiera arancione per i Raptors. Strano. Questo serve proprio per mettere le persone in situazioni talvolta complesse in cui far emergere veramente la parte più istintiva. Solo così, solo in questo modo, le persone possono tirare fuori la loro parte più istintiva e lavorarci in maniera importante proprio per ottenere il massimo poi risultato nella vita poi ordinaria di tutti i giorni. Ordinaria non vuol dire brutta, vuol dire semplicemente quella più abitudinaria, insomma. Fondamentalmente dovessimo riassumere la nostra missione, la missione che ci siamo prefissi con il Mor è proprio quello di aiutare le persone a riconciliarsi con i ritmi della natura e quindi tirare fuori i loro talenti più animali per poterli sfruttare al meglio, per potersi trovare nelle proprie aree di agio e sfruttare quelli che sono davvero i loro talenti. E non solo, inoltre anche qua, come dicevamo prima, è bene ispirarsi a quello che, diciamo, sono le parti più positive, no? Quindi in qualche modo non prendere gli aspetti negativi. Noi tendenzialmente siamo abituati a strutturare la nostra società come se fosse un branco di primati, quindi di scimmiotti, giusto, scimmiotti. Anche se l'idea di condividere la vita con una piccola scimmia non è carina, sì, un bel scimpanzé che ti arriva qua ti batte in testa. Purtroppo però diciamo che non è sicuramente la società più funzionale a cui ispirarsi, la società e in generale nella natura, il branco di lupi è sicuramente la società più collaborativa, più armoniosa a cui ispirarsi. I lupi sono degli esseri meravigliosi, basti pensare che in tantissime culture, prendiamo ad esempio gli indiani d'America, il lupo è considerato un maestro di vita, un maestro a cui ispirarsi e a cui, e da cui in realtà prendere la conoscenza e la saggezza, no? Sì, è uno degli animali totemici per gli indiani d'America per eccellenza, sicuramente. Insieme all'aquila. E beh, quindi non a caso, giusto appunto, in qualche modo. A tal proposito abbiamo trovato sul web uno scritto molto interessante proprio sul lupo che Ben va a manifestare, non ve lo leggeremo tutti perché è piuttosto lungo, ma vi leggeremo dei piccoli stralci che secondo noi sono estremamente interessanti e manifestano bene quello che è la nostra missione di vita. Il lupo mostra la sua lealtà in ogni cosa, è fedele al suo branco e alla sua compagna, ai suoi figli e alla madre terra, e trasmette questa sua qualità alle progenie future. Se ti fosse possibile frequentare i lupi, potresti scoprire nel branco un immenso senso della famiglia, nonché un fortissimo impulso individualista. Il lupo non si annulla, non annienta la sua personalità per il piacere di qualcuno. Egli rimane se stesso per completare la pluralità che porta alla perfezione dell'entità. Quindi, in qualche modo... Questo è molto identificativo per noi perché effettivamente il lupo, come nella nostra società, ognuno ha la sua individualità e soprattutto i suoi talenti. Quindi nessuno deve affossare i propri talenti e anzi questi talenti, questa individualità, crea un'armonia perfetta con tutto il resto del branco se solo noi riuscissimo a capire una singola parola che nei lupi è molto importante, che è proprio la collaborazione. La nostra missione è proprio far comprendere alle persone che lavorano con noi questo tipo di sistema, adattarlo nella società comune, nella società ordinaria, con dei risultati che vi possiamo assicurare sono risultati straordinari. Un piccolo stralcio che ha colpito molto me è questo. Capace di affrontare il ciclo della vita con dignità e coraggio, cerca sempre di evitare conflitti di sangue. Comunicando attraverso leggere inflessioni del corpo e sottili mutamenti emotivi, esprime il suo forte controllo sulla coscienza. Protettore della natura, viene a sua volta protetto per salvaguardare la sua grande conoscenza. Mi piace molto. Sì, questo poi quando scoprirete qual è il mio ruolo, qual è la mia energia più animale, vi sarà più chiaro perché ho scelto proprio questo stralcio. Esatto, quindi non anticipiamo su quelli che sono i ruoli, ricordatevi che all'interno del branco esistono molti ruoli, tutti di uguale importanza, con delle responsabilità sicuramente differenti. E vi posso assicurare, il capo branco non esiste. Esiste una coppia di leader che è la coppia alfa, maschio e femmina, e tendenzialmente è la femmina che decide qual è il maschietto migliore. Amo i lupi. Quindi anche in questo caso il maschio dominante è una bagianata che è già stata insegnata e che non corrisponde assolutamente a nulla di quello che è la verità delle cose. Affrontando quindi, terminando questo discorso, dimmi. Sai che a questo proposito mi è venuto in mente uno stralcio di Nuto Revelli che diceva: la donna nella società contadina non figurava ma comandava. Esatto, come si dice, chi porta veramente i pantaloni in famiglia? Violette. E sì, esattamente, quindi tendenzialmente questo è, diciamo, la suggestione che vi vogliamo dare. Ricordatevi, il capobranco non esiste, esiste una coppia leader, una coppia alfa, e la società lupoide non è assolutamente piramidale come quella che noi potremmo pensare. Può somigliare un po' di più alla tavola rotonda di Re. Assomiglia un pochettino alla tavola rotonda di Re. Mi piace molto. Lo so, perché c'è di mezzo Anacleto, che è il gufo. Anche Mago Merlino. E anche Mago Merlino. Detto questo, noi vi salutiamo, vi ringraziamo ovviamente della vostra attenzione. Questo è, diciamo, il primo, quindi un pochettino più introduttivo, e qualche cosa che sicuramente non avete mai sentito, perché siamo i primi a proporre questo tipo di attività nel mondo, perché in realtà è proprio nel mondo, e quindi, insomma, per comprendere bene quello che facciamo non vi resta che far altro ovviamente che ascoltarci e continuare a sentirci, insomma, anche nel resto, per scoprire qualcosa di più dei ruoli, scoprire qualcosa di più proprio del branco di lupi e di come anche tu che mi stai ascoltando puoi migliorare la tua vita semplicemente cambiando schema. Giusto? Assolutamente sì. Alla prossima e grazie della vostra attenzione. Alla prossima. Ciao ciao. E con questo la nostra puntata finisce qui. Alla prossima da Morena e Andrea. Ciao!